Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Il mondo del lavoro in Italia è penalizzato da certa politica. Il salario medio degli italiani è fra i più bassi di tutto il mondo occidentale. Eppure, il costo del lavoro in Italia resta alto. Cosa c'è in questa forbice? C'è lo Stato centrale romano, costoso e sprecone, un costo della politica assurdo e ingiustificato, e una miriade di balzelli, costi e oneri che non fanno la felicità dei lavoratori dipendenti, ma nemmeno quella dei datori di lavoro. Per le ore di lavoro straordinario, poi, si arriva a prelievi fiscali allucinanti, che si avvicinano alla metà del reddito prodotto. Nessun adeguamento, invece, alle variegate e molto differenti realtà regionali, che da nord a sud tagliano il paese in mille forme di iniquità e disuguaglianze incredibili. Di contro, lo Stato non offre servizi adeguati e differenziati alle variegate esigenze territoriali, ma tratta nel medesimo modo realtà fortemente produttive e realtà dove l'illegalità, anche e soprattutto nel mondo del lavoro, regna sovrana. Tutto a danno delle aziende e dei lavoratori, delle famiglie e delle realtà che trainano l'economia di questo paese. La crisi economico-finanziaria è aggravata da una classe politica costosa, inadeguata, impreparata e indifferente alle esigenze delle genti e dei territori che si dimostrano più attivi e trainanti dell'intero sistema paese. Invece di operare al servizio del sistema produttivo, questa casta politica si dimostra un vero e proprio limite alla crescita stessa del paese, creando ad arte instabilità politiche impossibili. Una cortina fumogena che ha il compito di spostare l'attenzione dai veri problemi e dalle soluzioni che necessitano urgentemente per sanarli e per risolverli. È questa politica, è questa classe dirigente, è questa casta politica a rappresentare il più grave limite al superamento della crisi in atto in Italia. La politica propositiva della Lega chiede invece costantemente di chiudere il rubinetto dello spreco e dell'inefficienza del centralismo politico romano, di adeguare i redditi ai differenti costi della vita che esistono fra nord e sud, in modo da favorire il motore produttivo italiano, le piccole e medie imprese e i lavoratori, secondo metodi di meritocrazia e di impegno, di qualità e non di quantità. La proposta politica del federalismo fiscale è il primo passo in questo senso e rappresenta anche l'unica via d'uscita dal tunnel nel quale ci troviamo, tradimenti e depistaggi politici compresi. Gustavo. Egregio direttore, insistere sull'unità dell'Italia è un dovere da parte del Presidente, ma dal mio punto di vista è solo un bel esercizio di retorica. È giusto e costituzionale, secondo lei, che la parte buona degli italiani paghi per una parte di italiani che volontariamente e consapevolmente sceglie e decide di vivere illegalmente in una sorta di antistato? È giusto e costituzionale che l'antistato faccia concorrenza allo Stato legittimo con i soldi di quest'ultimo? Un paio di questioni da definire in fretta e soprattutto una volta per tutte, in modo che ci possiamo risparmiare tutta la vecchia retorica sulla madre di tutte le unità, quella italiana. La mia proposta: ai comuni, province, regioni, dove l'adesione dei cittadini a mafia, camorra o 'ndrangheta supera il 10% della popolazione, si indice un referendum con due opzioni, lo Stato legale, l'illegalità. Se la maggioranza decide per l'illegalità, dal giorno dopo quella comunità cesserà di far parte dell'Italia e continuerà a vivere di espedienti. Avrà zero soldi dallo Stato. Se vince lo Stato legale, allora tolleranza zero per tutti. Una scelta di libertà, non crede? Elena. Gentile Elena, la sua proposta ha il gusto della provocazione, ma non può certamente essere presa in considerazione. Quella comunità di uomini liberi, che noi chiamiamo Stato, ha innanzitutto il compito di garantire la libertà di tutti e quindi di sconfiggere alla radice la malavita e la criminalità. Ci sono già purtroppo di fatto pezzi di territorio controllati da mafia e simili. Lo Stato con la sua autorità deve riconquistare e non abbandonare queste realtà. La vera scelta di libertà è quella delle regole, del diritto, della legge. È quella di una democrazia che può avere tanti difetti, ma che ha anche la capacità di vederli e di correggerli. E non è solo retorica parlare di unità d'Italia. È un fatto realizzato nella storia che ha permesso a noi italiani di crescere nel benessere e, per fortuna, anche nella solidarietà. La catastrofe catastrofe ambientale nel Golfo del Messico ci obbliga a prendere atto che più evolvono la tecnologia e la potenza dell'uomo, più gli incidenti possono avere un impatto devastante. Più crescono le forze in gioco, più l'errore può costare caro. E così, se oggi si uccide in pochi giorni un ecosistema che la natura ha costruito in millenni, domani in pochi secondi potrebbe andarsene anche il suo più nobile e distruttivo rappresentante. I fatti ci portano anche a considerare che errori e guasti non dipendono dalla grandezza delle forze in gioco. Se un famoso industriale aveva detto, riguardo all'affidabilità e semplicità delle sue automobili, «ciò che non c'è non si può rompere», allo stesso modo si può citare un altro più ironico, ma non meno vero, detto «se qualcosa può andare storto, lo farà». Questa legge di Murphy nasconde in realtà una verità scientifico-statistica. Anche le cose che hanno la minore probabilità di accadere alla fine accadranno, a patto che ci sia abbastanza tempo. Il nostro mondo quotidiano non crolla sotto il maleficio di questa legge solo perché il tempo di esposizione al rischio è troppo breve per trasformare l'eccezione in regola. Ma il rischio esiste sempre. Chi costruisce deve mettere in conto che l'incidente accada e valutarne gli impatti a priori. Questo non è pessimismo, è responsabilità. Dio non gioca a dadi, disse Albert Einstein. Un motivo in più per non accettare che a giocare a dadi con la natura e le nostre vite siano grandi compagnie petrolifere o committenti di centrali e armi nucleari. Massimiliano. Il film di Sabina Guzzanti è paragonabile a molte ottime inchieste giornalistiche. Ovvio che ci sono spunti particolarmente cinici sul premier e sul governo attuale, ma la sintesi dei fatti non cambia. La protezione civile ha in mano un potere economico e uno spazio di azione insolito, senza contare che i soldi che utilizza vengono spesi anche per manifestazioni che non hanno carattere di urgenza e soprattutto che sfociano nel privato. Il tutto ai danni dei cittadini che pagano, ma che si ritrovano edifici dei quali non possono usufruire, peraltro costruiti su terreni non edificabili. Sono sconcertata che di tutta la vicenda legata all'inchiesta sui grandi appalti, la maggior parte dei giornalisti e dei quotidiani si sia soffermata sulle risate degli inquisiti, sulle abitudini sessuali degli amici degli inquisiti e non abbia approfondito invece lo scandalo in sé. Ancora una volta, mi scopro allibita nel realizzare che certe verità scomode siano approfondite dai comici e non dai giornalisti. Quelli che si scandalizzano del film della Guzzanti dovrebbero sapere che i fatti sono fatti. Con la camorra e l'andrangheta infilati in ogni anfratto da nord a sud, noi lasciamo che un solo organismo che vive secondo regole proprie sia autorizzato a spendere i nostri soldi dove, come e quando vuole. I rimaneggiamenti dello Statuto della Protezione Civile, del resto, sono stati fatti dal governo Berlusconi del 2001 e non sono stati messi in discussione dall'attuale e dalla precedente opposizione. Barbara. È vero che la Guzzanti è ossessionata da Berlusconi, ma mi sembra sia un sentimento reciproco. Non è la prima volta che dei film mostrano una brutta Italia, ma non mi pare che ogni volta il ministro di turno si ribelli all'ordine costituito. Non è possibile che in questo paese qualsiasi cosa targata tanto Berlusconi quanto Guzzanti debba generare una bagarre preventiva. E la stessa cosa succede con Saviano. Adesso c'è chi dà di matto appena lo sente nominare, finanche Fede si sente in diritto di condannare il personaggio. Secondo me la Guzzanti ha tutto il diritto di fare i film che vuole, così come il governo ha il diritto di criticare un film che ne contesta le gesta ed eventualmente difendere la propria immagine se ingiustamente deturpata. Chiara Como. Dopo aver ascoltato la radio martedì mattina, ho sentito la necessità di inviare questa mail per esprimere, al pari di molti altri cittadini, la scarsissima stima nei confronti dei nostri politici e alti dirigenti nati per nomina politica, vergognosamente strapagati, spesso inadeguati e impreparati, con uno scarsissimo senso della responsabilità, raramente inchiodati al muro di fronte ai propri errori. Errori che ad altri professionisti normalmente costerebbero il licenziamento oppure esosi risarcimenti. Laddove il diritto al voto non riesce a colmare il mio senso di frustrazione e impotenza, ritengo che, come scrive Saviano, la letteratura e il giornalismo di livello siano l'arma per denunciare le storture che i cittadini vivono sulla propria pelle, inascoltati da una classe politico-dirigenziale troppo attenta a mantenere e a trasmettere a parenti o stretti affiliati i loro insostenibili privilegi. Vorrei che continuaste a sottolineare, nel modo preciso ed efficace sinora mostrato, la necessità di un rigore etico e di un alto senso di responsabilità che nelle altre democrazie occidentali avanzate sono condizione imprescindibile per un corretto funzionamento della democrazia. Silvana. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.